la versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori del 24, 16:31, primi 15 secondi. In diretta da Milano vi saluta Oscar Giannino, come sempre vi ringrazio dell'ascolto in diretta o in podcast. Vi ricorda l'indirizzo, la versione di Oscar, che ho, cioè radio24.it. Oggi, a differenza di ieri, è una puntata appunto che faccio perché sollecitatami da alcune lettere che abbiamo ricevuto. E qual è l'argomento della puntata, per consentirvi di intervenire se lo ritenete opportuno o ne sapete abbastanza e avete quindi un'opinione fondata su questo argomento, che, lo dico subito, riguarda il mondo dell'università italiana, perché ci hanno scritto alcuni ricercatori universitari all'inizio della settimana segnalandoci questo tema, sul quale è nata una polemica che riguarda le cosiddette cattedre Natta. Ecco, naturalmente Natta nel senso di Giulio Natta, il premio Nobel per la chimica italiano nel 1963, e queste cattedre Natta, che tra virgolette come ipotesi si affacciavano nel dibattito pubblico italiano fin dal 2013, nella legge di stabilità per quest'anno sono previste come una scelta per la quale c'è un accantonamento, una dotazione di 38 milioni di euro nel 2016 e di 75 milioni nel 2017, e queste cattedre riguardano professori universitari di accertate, conclamate, grandi, riconosciute per la bibliografia e per quello che hanno fatto vedere non solo in Italia ma nel mondo, eccellenza molto elevata. Stiamo parlando di un numero di cattedre fino al numero di 500, quindi non stiamo parlando di poche cose, naturalmente da avviare gradualmente. Allora, uno vede questa cosa e, per l'importanza del capitale umano, dice: ottima iniziativa. Su che cos'è la polemica in sintesi? Perché poi abbiamo due ospiti a cui lasciare il confronto diretto. Ecco, la polemica è relativa a, applicata a queste cattedre Natta, è più o meno una polemica che è quella già echeggiata per le modalità con cui si intendeva avviare lo Human Technopole nel post Expo, nell'area di Expo a Milano, e su cui magari molti di voi, anche non troppo informati sulle procedure del mondo scientifico, l'avranno viste, però diversi articoli, diversi interventi, per esempio della professoressa Elena Cattaneo, scienziata che fa parte del Senato, sul fatto che anche in quel caso la decisione presa dal governo, coinvolgendo con un ruolo primario fin dall'inizio l'IIT di Genova, in realtà, a giudizio di molti scienziati italiani, stiamo parlando di una iniziativa di eccellenza nella raccolta dati sulla genomica, al punto tale da farne un'eccellenza mondiale, era una scelta di tipo politico fatta dall'alto, ma che veniva meno al rispetto di un bando internazionale a cui, per maggior asseveramento delle qualità scientifiche delle scelte fatte per incardinare l'intera iniziativa, chiamare le eccellenze di tutto il mondo. Analogamente, e qua mi fermo, analogamente la polemica che è nata sulle cattedre Natta è: la commissione che dovrà valutare e scegliere i chiamati è in realtà di nomina governativa, cui c'è il governo che decide, violando le procedure di peer review e di quelle seguite nella comunità internazionale, quello che è meglio per certificare e valutare l'eccellenza nelle singole discipline. È una nomina politica. Allora, io mi fermo qua perché abbiamo due ospiti, appunto. Da una parte, uno di coloro che hanno animato, non il solo, perché sono in tanti, che hanno animato questa polemica, ed è Francesco Silos Labini. Francesco Silos Labini è un fisico teorico, lavora presso l'Istituto per i Sistemi Complessi del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Roma, ed è cofondatore fondatore e animatore, lui tra altri, numerosi altri, di un sito che io vi invito, se vi appassionano le questioni che sono relative alla ricerca nel nostro paese, all'università. Questo sito si chiama ROARS, come appunto i ruggiti del leone, solo che ROARS è un acronimo che sta per Return on Academic Research. È un sito che tratta tutti i giorni, con più post e articoli, esattamente questo tipo di dibattito nel nostro paese. Grazie di essere con noi, Francesco Sido Slabini. Buonasera e grazie a voi. E per capire dal punto di vista del governo, colui che nel governo ha seguito direttamente l'iter di questo provvedimento e sta lavorando e ha lavorato ai particolari tecnici, per così dire, cioè Tommaso Nannicini, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Grazie a voi, buonasera. Allora, Francesco, io probabilmente avrò commesso diversi errori tecnici nella sintesi della polemica, quindi le cedo la parola per illustrarli meglio ai nostri ascoltatori. Ma diciamo che il riassunto è sostanzialmente corretto. Ci troviamo di fronte a uno dei pochi casi al mondo in cui alcuni accademici prestati alla politica teorizzano il fatto che a scegliere i professori universitari debba essere la politica e non l'accademia o gli scienziati. Questo effettivamente noi abbiamo visto dei precedenti storici e l'abbiamo trovati nel decreto regio del 1935, durante il fascismo, quando c'è stata secondo questo decreto la nomina diretta delle commissioni era a carico del governo e del ministro. Quindi questo che significa? Significa che non c'è l'autogoverno del corpo docente, c'è un'etero di direzione burocratica e governativa. E quindi da questo punto di vista pensiamo che non sia il caso di farlo, perché appunto nel pianeta Terra non c'è un caso analogo in cui, almeno lasciando stare regimi totalitari magari dell'est di 30-40 anni fa, in cui si è verificato un caso del genere. Ma immagino che siate favorevoli al tentativo, con risorse, di riportare a casa eccellenze di capitale umano. In quel caso, quale procedura seguire invece, secondo Francesco Sido Sabini e i tanti che la pensano come lui? Ma no, secondo me, poi ognuno ha la sua opinione ovviamente, secondo me il fatto è che uno deve cercare di costruire un sistema che funzioni senza ogni volta fare degli interventi straordinari da fuori, in deroga alle norme esistenti. Allora adesso c'è stata la riforma Gelmini, è stata introdotta questa agenzia di valutazione ormai da vari anni, che funziona diciamo così e così. Allora il problema è di riformare, magari migliorare, ecco, l'esistente. Però qui non c'è mai il tentativo di migliorare l'esistente, ma di fronte a un fallimento uno si inventa un'altra storia per appunto accattivarsi l'opinione pubblica, perché poi se uno va a dire 500 supercervelli che ritornano, chi è contrario? Ecco, questo è il fatto. Uno deve puntare a migliorare il sistema. Purtroppo il sistema da 10 anni a questa parte viene sistematicamente tagliato in tutti i modi, da un punto di vista delle risorse e anche da un punto di vista, diciamo, del carico burocratico che uno ha, che alla fine toglie tempo sia all'insegnamento che alla didattica. Allora, per il momento fermiamoci qui con Francesco Sido Slabini e sentiamo le controdeduzioni, che immagino, però sentiamole, di Tommaso Nannicini, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Intanto non c'è nessun canale parallelo, non stiamo parlando di una procedura di reclutamento, stiamo parlando di chiamate dirette che sono previste dal nostro sistema e rispettano l'autonomia delle nostre università, perché le chiamate dirette per studiosi di chiara fama sono nel nostro ordinamento e qualsiasi rettore può farlo nella massima autonomia. Quindi questi 500 dovranno essere chiamati direttamente dagli Atenei nella loro autonomia. Se questi 500 non sono granché, gli Atenei nella loro autonomia non li chiameranno. Si tratta semplicemente, con i soldi dei contribuenti, di un programma che vuole premiare il merito e l'eccellenza nella ricerca per aprire il nostro sistema universitario ai cervelli in fuga, ma anche ai cervelli in trappola, i tanti con pubblicazioni internazionali intrappolati da logiche di reclutamento non troppo aperte agli standard internazionali. E anche magari attirare qualche straniero, perché uno dei deficit di competitività del nostro sistema è l'incapacità strutturale di attirare studiosi stranieri di chiara fama. Quindi è una procedura che vuole riconoscere pagando un po' di più questi studiosi con un fondo nazionale e permettendogli appunto di essere chiamati direttamente in qualsiasi ateneo, di muoversi all'interno del sistema italiano, vuole appunto premiare queste eccellenze. Per scegliere queste eccellenze e dare un segnale di apertura agli standard internazionali, è chiaro che dobbiamo aprirci al mondo e alla comunità scientifica internazionale. Il problema non è tanto gli atti amministrativi attraverso cui passa questo processo, ma la trasparenza e la qualità con cui viene gestito questo processo. Intanto le commissioni che sceglieranno per le 25 aree IRC, i 500 vincitori, saranno composte da due italiani. Aspetti, la devo fermare perché dobbiamo non dare per scontato che chi ci sente sappia che cosa è l'acronimo IRC. Lei, tra l'altro, se non sbaglio, è un vincitore quando era ricercatore di una borsa IRC. Diciamo, per capirci in termini non troppo tecnico, le borse IRC sono le borse di maggiore eccellenza che vengono affidate con bandi europei, quindi a ricercatori valutati a livello europeo come di maggior eccellenza. In piccolo, Milano sul totale delle borse IRC italiano c'ha una specie di piccolo, tra i tanti che vengono vantati, ma forse uno dei più fondati punti di eccellenza, però ne abbiamo ancora poche rispetto alle regioni più avanzate. Ecco, ma era solo per spiegare la sigla, mi scusi se l'ho interrotto. Quelle aree disciplinari intorno al quale ruota l'iniziativa, appunto mutuando questa pratica da questo progetto europeo. E la ringrazio anche per i dettagli, anche perché stiamo facendo polemiche su un DPCM che ancora in pochi hanno letto, perché ancora c'è un iter burocratico da concludere. Questa è sempre una cosa un po' italiana, diciamo, si parte da un particolare senza vedere il disegno e senza lasciare un attimo neanche l'occasione per spiegarlo, e vi ringrazio molto per questa opportunità. Quindi le commissioni per queste 25 aree disciplinari, ci saranno commissioni di tre studiosi di chiara fama, due italiani scelti in una lista predisposta dall'ANVUR, quindi tutta dentro il sistema, e un presidente internazionale di chiara fama, puntiamo a top scholars a livello internazionale. È chiaro che questi studiosi non è che li trovi sulle pagine gialle, ci deve essere un meccanismo di reclutamento. Il fatto che poi siano scritti in un atto amministrativo non vuol dire niente. I valutatori della ricerca nelle grandi agenzie internazionali, senza andare ai regimi del passato, ma vedendo oggi i grandi paesi che hanno standard di ricerca molto maggiori del nostro purtroppo, chi fa valutazione nelle grandi agenzie nazionali sono studiosi di chiara fama di nomina governativa, ma sono studiosi di chiara fama, sono riconosciuti dalla comunità internazionale. Di questo dobbiamo parlare, di chi li sceglie. Chi sceglie queste 25, al di là che questi 25 siano elencati in un atto amministrativo o in un altro, è chiaro che il ministro dell'istruzione e dell'università, che farà la proposta per inserire questi 25 studiosi di chiara fama a livello internazionale, che presiederanno come membri esterni queste commissioni, fatte anche da italiani, come dicevo, li sceglierà appoggiandosi a un comitato di personalità come il presidente della CRUI, il presidente del CNR. Quindi i massimi rappresentanti della ricerca italiana ci daranno una mano a fare scouting all'estero dei migliori studiosi a livello internazionale. La vera domanda non dovrebbe essere chi li sceglie, dovrebbe essere come facciamo a convincere questi 25 studiosi di grande calibro che stanno nel mondo a venire a darci una mano ad aprire il sistema italiano. Questa dovrebbe essere la sfida che ci poniamo tutti insieme, non in che atto amministrativo saranno scritti questi 25 studiosi. Ma nell'indicazione, nella bozza di PCM, l'indicazione che le commissioni, una volta nominate secondo il criterio che ci ha spiegato, due italiani e un top scholar internazionale, saranno quelle appunto che si adottano per questo tipo di cose, indicate tassativamente, cioè gli indicatori bibliometrici dei candidati? Ci sono dei criteri nel DPCM al quale le commissioni si devono attenere. Ovviamente devono essere, per la differenza disciplinare che c'è tra area e area, ognuno dovrà declinare questi indicatori in base alla propria area, se ci sono indicatori bibliometrici o di altri. Però sono ben elencati, quindi la qualità delle pubblicazioni internazionali, l'aver avuto accesso a finanziamenti di ricerca importanti come l'IRC di qui sopra, quindi i criteri sono ben elencati, poi le commissioni ovviamente dovranno declinarle. La vera garanzia del sistema è che questi 25 nomi siano di chiara fama, al di sopra di ogni sospetto, e anche i professori italiani ovviamente integreranno la commissione con il presidente membro esterno, diano garanzie di massima qualità. Questo è un processo nuovo, come tutte le cose nuove va visto quale sarà l'esito. L'importante appunto è gestirlo in maniera trasparente e con grandi standard di qualità a livelli internazionali. Questo è il nostro obiettivo. Allora, tra un minuto, perché adesso abbiamo le informazioni sul traffico, con Francesco Silo Stabini le controdeduzioni, perché Tommaso Nannicini, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, dice no, questa è proprio un'apertura invece agli standard di misurazione internazionale della qualità e del merito, non il contrario, e qui al di là dell'atto amministrativo con cui si avvia tutta la procedura, la si realizza, non c'è nessuna nomina politica. Sentiamo che cosa ci dirà Francesco Silo Stabini tra un minuto. Intanto traffico. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta. L'argomento della puntata è queste 500 cattedre NATTA che dovrebbero partire dall'anno prossimo. La dotazione c'era già in legge di stabilità di quest'anno per cattedratici di elevata qualità, e la polemica è sì, ma di nomina politica sì o no? Allora, abbiamo sentito Francesco Silo Stabini che ci ha spiegato, secondo noi qui non c'è uguale in nessun paese occidentale democratico. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Tommaso Nannicini dice no, neanche per idea, è vero l'opposto, noi abbiamo bisogno di questo tipo, ma la qualità è preservata, le procedure sono di totale adesione a quel per la certificazione del merito scientifico in ciascuna delle 25 discipline IRC su cui saranno articolate le commissioni per le chiamate. Che dice Francesco Silo Stabini agli argomenti usati da Tommaso Nannicini? Allora, innanzitutto dico che con le chiamate dirette le cattedre NATTA non hanno nulla a che fare, sono binari completamente diversi. Le cattedre NATTA, diciamo, è stato previsto un investimento intorno ai 100 milioni che, bisogna ricordarlo, è più del finanziamento a tutta la ricerca di base di tutto il paese per 3 anni. Quindi stiamo parlando di una cifra elevata. Poi certo è una cifra elevata per un sistema sottofinanziato, certo, che dal 2008 in poi ha subito un taglio del 20%. Quindi questo si tratta, quindi le cattedre NATTA, di un'assunzione straordinaria in deroga alle norme concorsuali vigenti, con criteri che sono definiti dal decreto e che appunto assegna al Presidente del Consiglio la nomina delle commissioni. Dopodiché Nannacini dice bisogna aprirci al mondo. Allora, io non so bene in che campo scientifico Nannacini fa, mi sembra che sia un campo un po' depresso, perché questi economisti effettivamente hanno un grosso problema. Non so se sia un complesso di inferiorità verso i loro colleghi di oltreoceano o che tipo di problema hanno, però per esempio noi fisici non ce l'abbiamo questo complesso di inferiorità. Quindi se Nannacini sta in un campo depresso, se lo risolvessero nel loro campo, se lei vede chi interviene a parlare di queste cattedre in favore, sono solamente economisti. Ora, gli economisti secondo me devono smettersi di occuparsi di università e ricerca, perché hanno fatto danni veramente mostruosi. Allora, se ci sono la fuga dei cervelli, non è come dice Cantone perché c'è la corruzione. Sempre questa cosa della corruzione è un argomento tirato fuori anche dalla Gelmini. Ah, facciamo la riforma per tagliare le unghie ai baroni. L'abbiamo tagliate le unghie ai baroni, sì o no? Com'è andata questa riforma? Ne vogliamo parlare. Quello che è successo è che dal 2008 a oggi il 90% del reclutamento è stato tagliato. Il 90% del reclutamento, sto parlando, no? Allora, quando ci sono questi giovani che non sanno dove sbattere la testa, questo è il problema. Non solo il merito, l'eccellenza, questo è tutto fumo da vendere. Come, non so, invece di vendere le perline colorate agli indigeni del Sud America, uno va a vendere l'eccellenza a gente, purtroppo a un paese che è da questo punto di vista sottosviluppato, parliamoci chiaramente, perché in nessun altro paese al mondo c'è una discussione di questo tipo e in nessun altro paese al mondo occidentale, cioè i nostri, diciamo, competitor, è stato fatto un taglio così grande all'università e alla ricerca negli ultimi 10 anni. Ecco, la Germania praticamente ha raddoppiato, sta al 3% del PIL. Noi siamo all'1. Questo è il fatto, noi stiamo andando verso l'Albania. E infatti il governo cosa fa? Dice venite a investire in Italia, prendetevi i nostri ingegneri che hanno un costo del lavoro minore. Cioè si punta sul fatto che il costo del lavoro è minore, come fanno in Albania, uguale. Questo è il punto. Allora, è una considerazione più generale, cioè Francesco Silo Stabini dice rispetto alle priorità indotte ed effetto diretto dei tagli, gli stanziamenti dovuti al reclutamento di questi anni, scegliere questo canale con la dotazione che pare a 3 anni il totale di quello che va al Fondo Nazionale della Ricerca, beh, è una scelta che però non sana in nessun modo il problema di fondo che resta strutturale e ben più grave. Che dice Nannicini? Beh, dico due cose. Intanto che prima pensavo che la polemica fosse disinformata rispetto a un DPCM che non è uscito. Adesso mi accorgo che è disinformata rispetto a una legge di stabilità che è già in gazzetta ufficiale da gennaio, in verità. E che spiega, cioè quella di quest'anno, non quella che il governo emana domani sera. Quella passata, esatto. Che spiega benissimo che le cattedre NATO sono semplicemente un meccanismo all'interno delle chiamate dirette. Infatti si modifica la legge sulle chiamate dirette dicendo che i rettori sono liberi di fare chiamate dirette. Nel caso delle NATO, che sono chiamate dirette, c'è questo fondo che paga lo stipendio un po' più alto perché sono stati scelti con un meccanismo centralizzato che premia l'eccellenza, quindi di chiamate dirette stiamo parlando. Stiamo parlando chiaramente di un meccanismo di eccellenza. Nella legge di stabilità di quest'anno ci saranno, intanto questo è il primo anno in cui il fondo ordinario per l'università non scende. Nella legge di bilancio che stiamo predisponendo ci saranno interventi importanti per tutto il sistema, non solo per l'eccellenza, perché abbiamo bisogno di tutto, abbiamo bisogno di aprirci all'eccellenza, abbiamo bisogno che tutto il sistema si muova con criteri di merito. Ci saranno 300 milioni per un programma importante di investimento sugli Atenei che premia i dipartimenti più forti sulla base della valutazione. Ci saranno 50 milioni per fondi individuali per tutti, per circa l'80% dei ricercatori, in base a criteri anche qui di valutazione ANVUR, ma tutti devono avere i propri fondi per provare, farsi conoscere nella comunità scientifica internazionale, andare a convegni senza passare a elemosinare il biglietto dell'aereo dal barone di turno. Poi io non so, noi economisti saremo depressi perché la nostra è la scienza triste, però mi è arrivato molte email anche di fisici, se non depressi, molto arrabbiati, diciamola così, perché hanno pubblicazioni internazionali al top, ma sono bloccati da un sistema un po' ostificato e baronale. Quindi se questi avranno una chance in più, giocata tutta sul merito e su standard internazionali, io sarò contento. Allora, io spero di aver fatto bene, perché queste sono le discussioni nel merito che secondo me bisogna fare di più nel nostro paese rispetto alla divisione di parte. Io comunque, non se ne abbia, sottosegretario Nannicini, io ringrazio chi, come si lo sa bene tanti altri, comunque con le loro iniziative, le loro critiche, eccetera, eccetera, dall'interno di quel mondo ci danno una pluralità di argomenti su cui riflettere. E naturalmente siamo tutti in attesa di vedere la legge di stabilità, che dovrebbe essere, la manovra dovrebbe essere varata domani sera, da quella che so. Non le faccio una domanda sull'APE perché non abbiamo più tempo, ma comunque grazie ai nostri ospiti e molti di voi ci hanno scritto, siete un po' divisi, vediamo un pochino se questa cosa si aggiunge davvero però anche risorse per, diciamo, l'ordinaria amministrazione, sia pur su base di qualità dichiarata ciascuno dipartimento ricercatore su che cosa davvero fa e ha fatto di meglio o di peggio rispetto agli altri, cosa sulla quale io sono molto d'accordo. Grazie a Francesco Silo Slabini, grazie a Tommaso Nannicini per il tempo che ci hanno dato. Continuato su Radio 24, appuntamento domani dalle 10 alle 12 con i conti da Belva, me, Carlo Alberto Carnevale, Maffè, Seminerio e Cifarelli, 2 ore su i costi economici della scelta del referendum, 2 ore intere su si risparmia o meno e quanto e qual è l'impatto sugli investimenti e le banche italiane, domani dalle 10 alle 12.